Qual è stata la sensazione? È stato bello e sentire l'acqua che mi fa pensare di essere vicino ad una cascata. Basta. E secondo te? Di pioggia? C'è sensazione di pioggia che... E te invece? Ruscello, non lo so.